che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò, dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani mi accadrà. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Se ritorni nella mente, basta pensare che non ci sei, che sto soffrendo inutilmente, perché so, io lo so, io so che non tornerai senza te.